Ce ne eravamo già accorti, ma ripetiamo, è tornata la politica, quella dei sospetti, dei complotti veri o presunti, delle ipotesi di cambi di governo. Giuseppe Conte sconta l'avvio di questa nuova fase, chiamiamola così, post-Covid, anche se non è proprio in questo modo, con un incremento di tensioni nella sua maggioranza, nel giorno dell'avvio degli stati generali dell'economia e in ore nelle quali molto si parla del rapporto Colao, che però Palazzo Chigi pare intenzionato a cestinare o marginalizzare. Ovviamente nel frattempo non è che il virus si sia fermato, insomma non è proprio un post-Covid. La Lombardia presenta ancora qualche preoccupazione, mentre è stata una due giorni dominata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale prima ha detto che, insomma, tutto sommato, i guanti è meglio non metterli, è meglio non usarli, e poi confermato la sua posizione sugli asintomatici. Non ci sono conferme sulla loro contagiosità. Capite cosa vorrebbe dire? Che di fatto il lockdown potrebbe essere stato inutile. Gli scienziati italiani però non concordano. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. So love me. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, bentornati a 24 Mattino. Sono le 6:32 minuti, è mercoledì 10 giugno. E la task force di questa mattina è composta da Carmelo Lauricelli Regi, Alessandro Marcotulli e Giorgio De Luca in assistenza in redazione. In redazione c'è anche Gloria Guerrera e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E voi, la vera task force di 24 Mattino. Vi aspetto al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. Oppure se volete scrivermi è 349-238-6666, SMS, WhatsApp, tutto quello che volete. Siamo anche in diretta su Facebook. Ci trovate ovunque. Sì, sì, ha ragione l'ascoltatore, dice il lockdown è nato quando hanno iniziato a scoppiare gli ospedali. Perfettamente, perfettamente ragione. Diciamo che apre certamente quello che ha detto l'OMS, una discussione, potrebbe aprire una discussione sulle misure. Poi è stata fatta una parziale marcia indietro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dicono non abbiamo dati certi, però ripeto, gli scienziati italiani ti dicono una cosa diversa. Oggi alle 8:35 avremo il professor Crisanti, ormai lo conoscete tutti perché ormai i virologi li conosciamo tutti. Il professor Crisanti è quello che ha messo in atto la strategia veneta, partendo da quell'indagine a tappeto su Vo e controllando appunto anche gli asintomatici. Allora, si diceva, torna la politica con questi stati generali dell'economia. Il ministro Provenzano dice saranno degli stati generali con tutti dentro. Alcuni degli impegni che prenderemo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, dopo la chiusura del negoziato con l'Europa, non impegneranno soltanto questa legislatura, ma saranno impegni che prenderemo come paese per il futuro. Per questo motivo noi abbiamo bisogno del massimo coinvolgimento, il massimo coinvolgimento delle forze sociali, delle forze produttive. Io non ho mai creduto alla disintermediazione, anzi la ritengo una cosa molto sbagliata. Abbiamo la necessità di coinvolgere tutte le forze politiche, chi vuole partecipare. Il il vice ministro all'economia Misiani, che tra l'altro sarà nostro ospite alle 8:20. C'è un ampio ventaglio di proposte, molte condivisibili, alcune sicuramente discutibili, e naturalmente derivano anche dall'eterogeneità dei membri di questo comitato. Però io credo che l'Italia oggi ha bisogno di una visione, di idee forti e di proposte concrete. Questo sia un contributo molto importante in vista degli stati generali. Ed era ovviamente sul documento Colao, altro elemento che crea un dibattito con... Salvini che dice sugli stati generali: non mi fido di Conte. Stati generali, io mi fido di quello che vedo. Settimana scorsa c'è stato il decreto scuola, di 100 proposte che ha fatto la Lega, raccolte da insegnanti, studenti, famiglie, ne hanno accolte 0. Quindi onestamente di questa gente non mi fido più. E sul piano Colao la mette così: se ci portano in aula il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, li votiamo. Il problema è che per 3 mesi non ci hanno manco ascoltato, però magari meglio tardi che mai. Queste sono le dichiarazioni ufficiali, ce ne sono poi molte altre. Diciamo, cara Marianna Aprile, come stai? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti. Ce l'hai i guanti? In casa, alle 6:30 di mattina. Vabbè, no. però sai, ormai non servono nemmeno fuori, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chissà. Cara Marianna, dicevo, Marianna Aprile, giornalista, autrice del Grande Inganno, First Lady, Nemiche Perfette ed Eroine Silenti. Cara Marianna, dicevo che queste sono le dichiarazioni ufficiali. Detto ciò, è quello che si muove sotto traccia il punto vero, ossia queste tensioni che tornano ad addensarsi intorno al presidente del Consiglio Conte, tanto che addirittura la stampa oggi arriva ad ipotizzare una sostituzione con l'attuale ministro della difesa Lorenzo Guerini. A questo siamo al ritorno un po' dei retroscena, dei complotti di Conte che dice non mi fido degli apparati, fase 3, fase 4, come la vogliamo chiamare, che dici? Fase sempre, direi. Fase sempre. È la fase sempre, credo che meglio di ogni, di qualsiasi bollettino delle 18 questo clima possa raccontarci che in fondo il grosso dell'emergenza è davvero finito, sì. Perché possiamo tornare a dedicarci a Guerini, presidente del Consiglio, Draghi corteggiato, Colao che litiga con Conte. No, diciamo che non so se c'è Marianna, non so se ce la faccio, te lo dico sinceramente. Un ascoltatore mi scrive fuffa su fuffa su fuffa. No, non so se questa però, se, però sempre così accade, la fuffa nasconde sempre qualcosa di molto più succulento e concreto. No, noi ci perdiamo un po' per perversioni giornalistiche varie, un po' per dovere. Dietro indiscrezioni come questa, lasciate trapelare, alimentate, eccetera, e ci perdiamo poi spesso, no, la vera ragione per cui si fa la muina, come dicono da Oxford. Cioè, il punto vero è che al momento il Presidente del Consiglio e la sua maggioranza si trovano in una posizione paradossalmente comoda e scomodissima allo stesso tempo. Comoda perché, diciamo, soprattutto il Presidente del Consiglio e quindi di conseguenza il governo godono di un consenso popolare nella coda lunga della gestione dell'epidemia, nel richiamo alla fratellanza nazionale, all'unità nazionale di Mattarella, eccetera, eccetera, eccetera. Scomodissima perché in realtà questo consenso in qualche modo lo devi ripagare, e sul come ripagarlo si iniziano a spaccare tutti, con in mano la prospettiva di gestire il fiume di soldi che con i suoi tempi l'Europa elargirà, e non avendo una visione comune e condivisa da spendere. Qual è il punto? Che, come è stato fatto anche durante la gestione della pandemia, se ci pensi, no, il proliferare di task force, altro non era che non solo sentire il parere degli esperti, ma anche in qualche modo avere un alibi facile per eventuali critiche, no? L'ha detto l'esperto, abbiamo fatto quello che ha detto la task force. In questo caso la sensazione è che questi 10 giorni, a parte la durata mostruosa, ma questi 10 giorni di stati generali siano da una parte un modo per Conte per accreditarsi come il miglior spenditore dei soldi europei con l'Europa stessa, e dall'altra il mettere in cantiere una serie di, appunto, ce l'hanno detto agli stati generali gli esperti, abbiamo raccolto le istanze degli esperti, per poi diciamo silenziare i mal di pancia interni al governo, che ce ne saranno molti, perché nel come verranno spesi questi soldi ci sono visioni contrapposte da loro, condoni fiscali, green, cioè roba che o viene l'orticaria ai grillini o viene al PD. Su certe cose sicuramente. Qualche ascoltatore dice giustamente: non c'è niente che io odi di più, mi scrive un ascoltatore, della dietrologia. Allora, in parte ha ragione, lo comprendo perfettamente. Io tutto vorrei meno che arrivare a queste cose. E però c'è qualcosa in più della dietrologia. Vi do un elemento, no, giusto, che può risultare un elemento di lettura dal pezzo di Augusto Minzolini sul Giornale di oggi. Parla Cristian Romaniello, quindi nome e cognome. 5 Stelle, fino a ieri sostenitore senza se e senza ma di Giuseppe Conte. Virgolettato: questa storia degli stati generali sembra una commedia di Goldoni, si fanno queste cose quando non si sa che pesci prendere. Poi ti fa la domanda che non ti aspetti: ma Conte dura? Dicono che a settembre. Allora capite che se c'è questo clima anche all'interno del Movimento 5 Stelle, non so se sia un gioco di messaggi trasversali, se stiano sfruttando noi stessi giornalisti, te, me, Marianna, che siamo qua, me e te per essere più precisi, che siamo qua a parlare, no, per lanciarsi messaggi l'un l'altro, arrivare a degli accordi. Io questo non lo so. Di certo è un gioco antico e abusatissimo, cioè è anche molto scoperto ormai. Sì. Infatti ormai quando arriva l'indiscrezione o la battuta di questo tipo, più che chiederti che cosa ti sveli, ti chiedi che cosa ti vuole nascondere. Sì. che battaglia c'è interna al Movimento 5 Stelle, e che porta a questo fronte? È difficile spiegarti, perché sono più di una, diciamo. Sì, insomma, questo è. Allora, per venire alle questioni Covid, sentiamo la Van Kerkhove dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Carmelo Lauricella, via con gli asintomatici. We have a number of from countries who are doing very detailed contact tracing. They're following asymptomatic cases, they're following contacts, and they're not finding secondary transmission onward. It's very rare. Insomma, molto rara la trasmissione dagli asintomatici, dice la Van Kerkhove, che è la virologa, un'autorevole virologa che si occupa anche della comunicazione, in questo caso per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dice: dai paesi che fanno contact tracing intenso e quindi tracciamento dei contatti, non ci risulta, ci risulta che la trasmissione dagli asintomatici sia molto rara. Torna Ippolito dello Spallanzani, così. Ancora una volta io credo che questa diffusione di informazioni martellante, in un momento in cui i dati scientifici non sono così forti, determina nell'opinione pubblica ulteriore incertezza. Oggi il mandato che noi dobbiamo avere è di considerare che gli altri possono essere infetti e applicare le misure adotte. Così Ippolito, appunto, che poi si lascia andare a una dichiarazione dicendo: tutto sommato la collega De Kerkhove, togliendo il fatto che la collega De Kerkhove è carina, ragazzi, cioè veramente di queste cose non se ne può più, Quindi ve la cito, ma ve lo risparmio quest'audio. I guanti, Ranieri Guerra dell'OMS. Ce l'hai, Carmelo? Ce l'hai? Vai. Come no? In questo momento mascherine altamente raccomandabili in diversi contesti, guanti non necessari perché non hanno nessun vantaggio rispetto al lavaggio frequente delle mani. Cioè, o ti togli il guanto o ti lavi le mani, è la stessa cosa. Anzi, stai tentato di lasciarti i guanti. Esattamente questo, il guanto può diventare una fonte di trasmissione. Ok. ragazzi, non so più che dire. Marianna, abbiamo tenuto i guanti per un mese nei supermercati, ovunque, dappertutto. Adesso mi diventano una fonte di trasmissione. Esco pazzo. Abbiamo ormai i polcini tra le dita qui a riportare i guanti di lattice, cioè, mi dice un ascoltatore: Simone, adesso chi me li rimborsa tutti i soldi? E lo dici a me, che ho fatto una famiglia di 5 persone, ho fatto gli ordini su Amazon facendo un accaparramento di guanti di tutti i tipi come un pazzo, e poi niente, non mi servono. Traffico. E così dunque sul Covid. Cosa abbiamo ancora? Abbiamo nella giornata di oggi la riapertura dei confini con gli altri paesi europei. Torna a parlare il presidente della regione sarda Solinas, che parla di ingresso in Sardegna con la registrazione, ma insomma ne abbiamo già discusso nei giorni scorsi. E poi, vabbè, vi lascio due cose un po' più leggere, la discesa in campo di Emanuele Filiberto e Matteo Salvini, che rimpiange gli anni Ottanta per la fine. Mentre invece è il momento di prendere, dopo tutti i retroscena politici, ne abbiamo parlato, insomma, di andare ad una questione molto seria, che è la questione dell'ILVA. Oggi abbiamo... Il Messaggero apre sulla paralisi, sulle crisi industriali. Ci sono Ilva, c'è la questione di Atlantia che rimane sospesa, la vicenda di Alitalia, ma è su Ilva che ci concentriamo questa mattina. Ieri c'è stato lo sciopero e c'è stato soprattutto un giro di incontri e di dichiarazioni con quest'ipotesi, che più che un'ipotesi è un fatto, l'arrivo dello Stato nel capitale, e un'azienda che ha annunciato un numero di esuberi molto elevato. È un mercato che oggettivamente al momento è quello che è. Torna con noi Biagio Prisciano, che è segretario generale aggiunto della FIM CISL Taranto Brindisi. Prisciano, buongiorno, bentornato, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, l'azienda è ovviamente sotto un fuoco congiunto vostro e del governo per questi annunci nuovi esuberi ArcelorMittal. È vero anche, Prisciano, che innanzitutto se ci dà la dimensione, è vero anche che il mercato dell'acciaio in questo momento è quello che è. Ma sì, il mercato dell'acciaio è quello che è, e sarebbe ovviamente, come devo dire, negare che ci sia un problema legato ai mercati, ovviamente in questo paese, un po' anche da quella che è la situazione, insomma, che ha generato l'emergenza sanitaria. Però crediamo che la stessa azienda si continui a trincerarsi dietro il Covid. Le faccio un esempio: quando lei fa in premessa la dichiarazione per cui un'azienda di questa portata si trova in mezzo a due fuochi, i fuochi non ce li abbiamo messi noi, i fuochi ovviamente è l'azienda che se li cerca e continua a cercarseli. È un atto vergognoso e tra l'altro di irresponsabilità quello che fa ArcelorMittal, perché presenta un piano industriale per cui ci sono nel 2020 3.200 esuberi, tra l'altro posticipa quelli che sono i lavori di ambientalizzazione, non se ne parla più del rifacimento dell'Alto Forno 5 e nel 2025 questo piano vergognoso, che a mio avviso, anziché rilanciare l'azienda, molto probabilmente si parla di qualcos'altro, si assesta anziché a 8 milioni di tonnellate a 6 milioni di tonnellate. Se noi prendiamo, per non ovviamente arrivare anche alla questione di Ilva S, cioè di quei lavoratori che, così come era previsto nell'accordo del 6 di settembre 2018, che è l'unico accordo che noi riconosciamo e quello che abbiamo siglato, i lavoratori 1.600, man mano che l'azienda andava avanti nel processo di ambientalizzazione, al 2023-2025 questi lavoratori venivano ovviamente inseriti all'interno del sito produttivo. Sì. Stiamo parlando di una situazione... Prisciano, secondo lei l'azienda se ne vuole andare? Ma l'azienda... Cioè spera di fatto di vendere allo Stato e di liberarsene? Ma se questa è l'intenzione, a questo punto lo facesse in maniera molto ma molto più seria, perché sinceramente un'azienda che continua a trincerarsi, a presentare, a stralciare accordi e magari presentare piani industriali fasulli da una parte e dall'altra magari chiede anche risorse per fare che cosa? Per mettere 5.000 persone fuori. Guardi, noi abbiamo i lavori di ambientalizzazione che la stessa ArcelorMittal ovviamente ha fermato, cioè questo è un atto gravissimo. E tra l'altro tutti i lavoratori dell'indotto e dell'appalto vivono in una situazione oramai allo stremo. Venerdì la Ferplast, che è un'azienda dell'indotto, ha ritirato le maestranze ovviamente dagli impianti, perché non si può andare così avanti. ArcelorMittal aveva garantito 5 milioni di euro di pagamenti, cosa che non ha fatto. I lavoratori continuano a essere in cassa integrazione con impianti fermi. ArcelorMittal, anziché preoccuparsi delle manutenzioni ordinarie, straordinarie, ordinarie che mancano all'interno della fabbrica, cosa fa? Presenta solamente tagli del personale e procedure di cassa integrazione. È inammissibile. Allora, qua un ascoltatore scrive, gliela metto là, l'ex Silva purtroppo, pur ovviamente condizioni diverse, situazione diversa, industrie diverse, diventerà una nuova Alitalia, no? Con una difficoltà di rilancio costante, lo Stato che interviene costantemente, intravede questo rischio Prisciano oppure no? Guardi, lo Stato deve fare lo Stato, anche ieri nella videoconferenza tra le organizzazioni sindacali, il ministro Patuanelli, ministro Catalfo, ministro Gualtieri, io penso che uno Stato, anziché ovviamente rimanere sulle posizioni nel dichiarare che il piano industriale è inaccettabile, deve usare, deve avere coraggio, perché noi ci troviamo in questa situazione anche per tutti i danni che la stessa politica e la classe dirigente politica ha combinato. Ricordo che l'accordo del 4 di marzo... Ma deve metterci, Prisciano, secondo lei deve metterci soldi, deve diventare azionista di Ilva lo Stato oppure no? Lo deve diventare in maniera consistente? Lo Stato deve dare un segno tangibile, chiaro e forte, che sia nella risoluzione della vertenza, perché questa vertenza credo che sia la madre di tutte le vertenze. È partita nel 2012, siamo nel 2020, non si può continuare così. Cioè le persone non si possono lasciare appese. Otto anni. Noi abbiamo sottoscritto un accordo che è quello del 6 settembre 2018 e l'abbiamo ribadito ieri a tutti i ministri e al governo, che si parte da quell'accordo. Un accordo che dava risposte sia in termini industriali, occupazionali, di salute, di sicurezza, provvedeva al rifacimento dell'Alto Forno 5, sfruttava le migliori tecnologie. Quindi Prisciano, mi scusi, la vostra impressione è che il governo non abbia un piano B? Assolutamente no. Assolutamente no, e questo gliel'abbiamo sempre dichiarato al governo, perché abbiamo detto: se avete un piano B, tirate fuori il piano B. Questi sono e loro però ti dicono giustamente: io il piano B non lo tiro fuori, perché se lo tiro fuori poi ArcelorMittal si attiene al piano B e fa sì che no, e si sfila e scappa. Ho capito, ma che facciamo? Permettiamo ad ArcelorMittal di continuare a presentare piani fasulli? E l'unica cosa che intravediamo in questi piani sono la chiusura degli impianti, il taglio del personale e procedure di cassa integrazione. Ricordo che noi siamo passati dalla cassa integrazione Covid alla cassa integrazione ordinaria, che è quella che abbiamo lasciato e che tra l'altro non abbiamo mai siglato, era con un massimale di 1.273. Adesso la procedura che partirà dal 6 di luglio per 9 settimane, che ha già inoltrato ArcelorMittal, prevede tutta la forza, quindi stiamo parlando di 8.173 persone in cassa integrazione. Anche qui, altro mistero, tutta la forza in cassa integrazione ordinaria. È una cosa assurda. Cioè, un territorio come Taranto ha bisogno di risposte. La politica fare la politica. Chiaro. Cioè, la questione dell'ILVA deve essere al centro e i riflettori non vanno mai spenti. Perché io penso che la gente, la politica, ha pensato più a una campagna elettorale frenata, utilizzando i problemi dell'ILVA, facendo bagaglio di voti, e poi alla fine dei conti il risultato è questo. Sì. L'accordo del 6 di settembre, non l'abbiamo buttato a terra noi. Sì, sì. No, chiarissimo, chiarissimo Prisciano. Come vede i riflettori li teniamo accesi. Grazie Biagio Prisciano, segretario generale aggiunto FinCISL Taranto Brindisi. Marianna Aprile, sei ancora con noi? Ci sei? Allora guarda, facciamo una chiusurina sugli anni Ottanta, ti va? Si ricorda quando era il 15% il tasso di interesse sui buoni italiani? E io mi ricordo come stavano bene i nostri papà. Quando c'era l'inflazione alta, quando c'erano i tassi di interesse alti, lavoravano tutti. Ma noi poi ci siamo confrontati con noi. Questa cosa della nostalgia, ci divento pazzo. Ci divento pazzo, Marianna, con questa storia della nostalgia degli anni Ottanta. Non so come la vedi tu, però io proprio boh. No, torna tutto, perché se ci pensi, il fatto che la nostra generazione, che poi è quella di Salvini, abbia così tanta nostalgia degli anni Ottanta è proprio perché stiamo pagando tutta la bella vita che facevano i nostri genitori e i nostri nonni di allora. Bravissimo. E anche perché avevamo 20 anni di meno, parliamoci che no, di più. Eravamo bambini, e non ne sapevamo niente. E quindi abbiamo nostalgia degli anni Ottanta. Grazie Marianna Aprile. Grazie anche voi, per oggi. Ciao. Il GR naturalmente, GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.